Benvenuti. Giustamente. Come al solito Greg è un bravissimo Greg. Dice, un burlone. E quindi, benvenuti alla nostra terza puntata puntata del podcast del Focolare Elettrico. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E questa è la nostra, come dicevamo, nuova puntata chiamata Combo Breaker. Che dire da Killer Instinct, così lo esatto, dico io. Ricordiamocelo. Esatto. Per i neofiti, per persone meno insegnate, questa famosa esclamazione viene dal videogioco Killer Instinct, un arcade del 1994. Noi eravamo bambinetti quando è uscito. Sì, io avevo 2 anni, probabilmente anche tu, quindi sì. Ci avrebbero battuto facilmente a questo gioco. Ed era un'esclamazione che arrivava, veniva sparata fuori dall'arcade, dalla console che si trovava nelle sale giochi, quando un giocatore immetteva durante il gioco una speciale sequenza di tasti per appunto creare una combo all'interno del combattimento. Questo era un gioco di lotta. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi, di input. Combo Breaker però era quello che spezzava la combo, no? Qui andiamo troppo nel dettaglio, Jacopo, ma probabilmente anche tu hai ragione. Chi si ricorda? Non lo so. Vabbè, io ci ho giocato veramente poco nel 94. Vabbè. Giustamente. Però sì, l'idea era questa, appunto, di parlare di sistemi di input e degli input in sé, di come questi vadano a influire sull'esperienza di gioco, tutto esatto. E per tutto. Cercheremo di parlare prima di in generale gli input e delle cose standard che si devono fare, poi parleremo un po' degli input strani e veramente assurdi, tipo anni 80 e cocaina, e alla fine ci sarà momento futuro... Comunque posso dire una cosa, quando all'inizio dici io sono Marco e poi dico io sono Jacopo, mi sembra che siamo il Team Rocket. Certo. quando faremo non siamo qui per conquistare il mondo. Esatto, no, quando faremo la puntata con Salla gli faremo dire miau proprio così. Assolutamente, lo pago se lo fa veramente. Comunque sì, andiamo. Vai. Comunque, dicevamo, sistemi di input. Sì. Ora, noi come... permettete, di nuovo, questa sempre per continuare ancora, finché Jacopo mi d'accorda, la nostra, questa costruzione di episodi a mo' di esperienza da videogioco. Marco, uno dei film più belli degli ultimi anni per me è Baby Driver, solamente perché sono veramente un malato mentale ed è tutto preciso, capito? Ossessivo compulsivo con la musica, il montaggio. Quindi non ti preoccupare, per me va benissimo finché riporta tutto. E quindi... dicevamo, siamo partiti guardando la schermata di start del gioco, abbiamo premuto New Game e adesso, con controller in mano, siamo all'inizio della partita e dobbiamo interagire con il gioco stesso, giusto? Sì. Ed è questo che dobbiamo parlare adesso, dell'interazione che l'utente ha con il videogioco. Perché perché l'interazione è esattamente quello che distingue questa tipologia di espressione, di arte, come l'abbiamo già definita, rispetto a tutto il resto, perché noi possiamo anche andare al cinema con un controller in mano e premere i tasti, ma non penso che Robert Downey Jr. Si commuovi in modo diverso durante il film degli Avengers, no? Quindi, è proprio l'interazione che ha l'utente con il videogioco che rende speciale questa forma di intrattenimento. Abbiamo già parlato di tutorial, però non ci siamo concentrati troppo sugli input, cioè su come si interagisce con un gioco, effettivamente, o sbaglio. Esatto, perché l'idea del tutorial... Sì, abbiamo accennato a cosa fosse un tutorial, la parte iniziale di un gioco... che ti spiega come giocarlo, appunto. E una delle parti fondamentali di un tutorial è spiegare come funzionano gli input del giocatore, oltre alle regole base del gioco. Una volta che sai quali pulsanti devi premere per far compiere le azioni al personaggio, direi che siamo già nel vivo di quello che ci interessa. Okay. E una cosa di cui non tutti si rendono conto, almeno secondo nostra modesta opinione, è che spesso... i controlli, come sono fatti i controlli di un videogioco, ne possono benissimo determinare il successo o il fallimento. Alcuni dei giochi più famosi vengono ricordati proprio per come hanno rivoluzionato il modo di controllare il giocatore, di come accettavano l'input del giocatore perché era un'esperienza unica nel suo genere. Oppure perché erano molto idioti, tipo assolutamente Remix per ma di quello di quello dobbiamo assolutamente parlare. Se vogliamo proprio partire dalle basi, proprio fare i banali banali, perché questa è un'osservazione che è stata fatta più e più volte, uno dei videogiochi che si cita di più sotto questo argomento è appunto Super Mario 64. Aspetta, però, prima di partire con questo esempio, due cose. Definiamo che cos'è in generale il metodo di input rispetto al gioco. Qua Jacopo mi arriva sempre in aiuto. Esatto, ti faccio... Continua pure. Ti vado dritto sugli stinchi, proprio in entrata col tacchetto. Però la seconda parte, invece, è che cos'è proprio un controller in generale, cioè che cosa deve fare di solito un controller normale, tra virgolette. Quindi... La prima parte, diciamo che se il gioco è il testo, il controller, come anche tipo il manuale di istruzioni, la copertina della scatola o materiale tipo di marketing, così è una cosa un po' metatestuale, cioè un po' che non è proprio sempre integrata nel gioco, nel senso che non è sempre propria di quel gioco. È un po' come dire, io vado al cinema, il proiettore o la sedia non è propriamente parte del film, diciamo. Assolutamente. Però qui, più che nei film, più che nei libri, magari il font o la copertina del libro è più importante di altri elementi, perché diciamo deve essere ben integrato, deve essere una cosa ben pensata, diciamo così, che o scompare, cioè o a un certo punto non ti rendi conto, oppure aumenta l'esperienza, oppure è pensata bene, ma quello ci arriviamo dopo. un controller, cioè un metodo di input per un gioco, diciamo nella sua forma più semplice, è una roba che sopra c'è dei pulsanti che tu premi e poi altra roba succede. Per esempio nei cellulari c'è lo schermo touch, tu lo premi, succedono cose, se giochi al computer magari la tastiera o il mouse che ha pulsanti puoi muovere così, se no... Le console normali sono dei pezzi di plastica e la console dei bottoni che pigi. Assolutamente, cioè se vogliamo parlare della forma dei controller, durante gli anni hanno assunto le più svariate forme e dimensioni. Se abbiamo la pagina di Wikipedia che ci viene in aiuto, va, dei game controller, abbiamo il classico gamepad, che è quello che probabilmente la maggior parte di voi conoscerà, è quell'affare che si tiene in mano, tipicamente... una piccola, come si può definire? È la forma, cioè, e la forma del gamepad. Cioè esatto, ha due cose prolungate, che schifo, che si possono leggere bene in mano. Esatto, con sopra varie leve e pulsanti, per non dire anche grilletti, che permettono appunto di registrare input elettrici che verranno inviati alla console. Ma esatto. Se parliamo di forme... Ci sono stati i joystick, Madonna, che erano quelli con la singola, come dire, leva centrale, tipicamente funziona così, con una leva centrale e diversi pulsanti che ricordano molto. Che è quello il joystick. Esatto, quello è proprio da cui prende il nome, lo stick della gioia, e non altre parti del corpo umano. Esistono le trackball, che non penso di aver mai usato in tutta la mia vita. Esistono i volanti e anche le cloche, se si parla di simulatori di volo, giusto Jacopo? Sì. I pedali per dare cose, ovviamente mouse e tastiera, touchscreen, il controllo del fiato, è vero anche che alcune console usano il respiro del giocatore come input del... Oddio, mi è appena arrivata in mente una cosa, tipo un flashback traumatico che poi le deciderò dopo. Esistono le light gun, che anche lì molto carine, ovvero un controller a forma di pistola che usavano input luminosi per sì, input luminosi della console per registrare l'evento, oppure, e poi svariate forme e dimensioni. Se volete proprio sbizzarrirvi, cercatevi documentari, video su YouTube che parlano dei controller degli anni 80 della Nintendo, e lì perdere delle ore. Ma poi ne parleremo dopo su quelli. Assolutamente, strani, su questo quelli... facciamo accenni a, come dire, controller particolari un po' più tardi. E quindi questo, come dicevi, era la base. Questo è un controller, un qualcosa che trasforma gli input motori del giocatore in qualcosa di elettronico che il sistema di computer riesce a interpretare e leggere, giusto? Esatto, quindi per questa puntata ci concentriamo su il controller e su come il gioco ha, diciamo, collegato azioni al controller e perché, mettiamola così. Esatto, perché cioè, leggere input motori e trasformarli in input elettrici per la console, quello ci riescono tutti, cioè chiede uno per strada oddio, si trasforma. C'è tutto un discorso tecnico che potremmo fare sulla assolutamente, latenza, tipo quanto tempo ci mette il segnale dal controller ad arrivare al gioco, ovviamente. Vari insulti a Stadia che potremmo fare, però non lo faremo. Noi ci concentreremo, allora, immaginando... Questo è un discorso molto tecnico. Immaginando il gioco come questa specie di macchina che ha dentro uno stato in cui esiste, cioè c'è una specie di stato del mondo, il giocatore può modificarlo premendo questi pulsanti che generano lo stato successivo. Ovviamente questa cosa cambia decine di volte al secondo, stavo per dire centinaia, ma siamo bassi. quindi dà un po' l'impressione di essere una cosa continua, cioè il giocatore preme un pulsante e quasi immediatamente, facciamo finta, Stadia vaffanculo, quasi immediatamente succede qualcosa. Anche che poi Google non ci sponsorizza. No, ma in realtà scherzo, anche non è colpa loro. Andiamo avanti. Quindi sì, cioè la parte dal punto di vista tecnico, quello è un discorso che non vogliamo affrontare. Lì, se volete imparare a costruire controller, vi suggeriamo l'università di ingegneria di un qualsiasi. No, se odiate la vita più o meno quanto noi. Okay, allora ma sì. Quello di cui vogliamo parlare oggi è come i vari designer, quelli che producono i videogiochi, riescono ad usare questi controller standard nel loro complesso, perché quelli definiti, come dire, da un sistema a priori, come una mouse e tastiera, per creare un'esperienza di gioco diversa e unica da titolo a titolo. Sì. Ci sono, come dicevo prima, giochi che hanno fatto la storia nel modo in cui affrontavano questa tematica. Quello di cui parlavo, avevo iniziato ad accennare prima, appunto uno dei più famosi a cui si fa sempre riferimento è Super Mario 64. Ora, a parte leggende di Miyamoto che perdeva ore e ore a testare i controller nel primo livello fino a che questi non li sentiva essere giusti, sentire proprio quel feeling nel controller che riusciva a... Sì, quel momento in cui capivi che il controllo del giocatore su Super Mario, il personaggio, era giusto, il gioco si basa proprio su questo. Controllare Mario in tutte le mappe di gioco nella maniera più naturale e migliore possibile. Okay. Infatti... Sì. No, di pure. Veloce digressione. Super Mario 64 è uno dei primi platform, cioè giochi che si concentravano sul saltare da una piattaforma all'altra, appunto come in Super Mario normale, cioè Super Mario Bros. Però in 3D. E questa cosa ora sembra, dici, normale, magari è anche un po' invecchiato, ma all'epoca era, cioè, una cosa veramente rivoluzionaria. Sì, rivoluzionaria da vedere. Infatti c'è chi ha definito Super Mario 64 come il primo vero gioco open world, che si basava sull'esplorazione, e sì, che si basava principalmente sull'esplorazione. Sì, infatti, dovevi un po' andare dove volevi, infatti, nelle mappe. Esattamente. E infatti, questa è una frase che ho letto e che mi è rimasta impressa, se il 90% del tuo gioco è il muoverti in giro, devi essere sicuro che quel 90% funzioni bene. Sì. Se il controller se il controllo di Super Mario fosse stato impacciato, innaturale, tedioso, difficile da governare, il gioco non avrebbe avuto lo stesso successo e non avrebbe fatto lo scalpore che ha fatto finora. E infatti è stata una di anche una di, come dire, questa è stata anche l'argomentazione per dire che gli ultimi giochi di Mario, come per esempio Super, in particolare, no, come quelli di Super Mario Galaxy, hanno un po', avevano un po' perso questo concetto di movimento libero e naturale del giocatore, che poi è andato a, a riscoprirsi in Super Mario Odyssey per la Switch, che ha avuto un successo altrettanto strepitoso quanto quello di Super Mario 64. Però a livello di controlli in sé del personaggio, non diciamo più in generale nel mondo, sono sempre stati tutti quanti i capitoli di Super Mario sono stati sempre molto precisi, assolutamente molto... Cioè, infatti è quello che sono stati proprio gli esempi perfetti di quello che stiamo cercando di dire un po' io e Jacopo, che se il tuo gioco si basa completamente sull'input del giocatore, sul come viene manovrato il personaggio principale, devi essere sicuro che questo controllo che hai su di lui debba essere sentito naturale e con il feeling migliore possibile. E Super Mario ne è l'esempio lampante, anche se si pensa al primissimo gioco, quello in 2D uscito per il NES, già anche lì il movimento di Mario era molto diverso da tutti i tipi di movimento che si vedevano nei giochi precedenti che lo hanno preceduto. È spettacolare, cioè ci sono tantissime piccole cose che una persona che gioca neanche nota. Esatto. Già nel primo Super Mario, cioè già in Super Mario Bros. Roba, allora, a parte la struttura del tutorial di come impari questi comandi, abbiamo già parlato, no, del fatto che anche come in Mega Man X hai tempo di impararli, di provare senza che nessuno ti dica questo pulsante fa questa cosa. Hai delle occasioni in cui vieni quasi forzato a scoprire cose, tipo il fatto che puoi schiacciare i nemici, tipo il fatto che saltando su un blocco succede quello, però sono pochi. Hai quel controller a disposizione, che era un controller che aveva solo due pulsanti, e hai le quattro frecce su dove andare con Mario. E con quei pochi pulsanti, però, c'è tanto da fare, perché sì, puoi andare a sinistra e a destra, ma puoi anche correre, quindi piano piano la tua velocità cambia, non istantaneamente. Se ti fermi, Mario non si ferma subito, ci mette un po' a fermarsi. C'è una specie di inerzia, anche se è finta. Se salti e magari eri un po' oltre il bordo, Mario non cade. Cioè, ci sono tante piccole cose che non sono realistiche, non hanno niente a che fare con la fisica. Però qualcuno ci ha pensato. Sono assolutamente. Sono dettagli importantissimi per far sì che il giocatore sia sempre collegato, abbia sempre questa connessione istantanea. Ed è una cosa che Celeste, se cercate su YouTube, c'è un video che ne parla. Celeste è un gioco recente, simile a, cioè, sempre platformer 2D, però molto più difficile, molto più, un po' più elaborato, nel senso che non è solamente un salto e mi sposto, c'è anche doppio, triplo salto, arrampicata, c'è un pochino più complicato e i livelli sono un po' più difficili. È un po' il Dark Souls dei platformer. Lo sapevo. È sempre quello il metodo di paragone ormai. È il Dark Souls dei Dark Souls. No, è più complesso, è quasi complesso, per così dire. Ed è spettacolare perché gli sviluppatori hanno... C'è questo video dove parlano di come è fatta la meccanica di salto, del fatto che hai sempre questo momento di grazia prima di cadere, per saltare, hai sempre la possibilità di mantenere la tua quantità di moto, per dire un termine fisico, cioè la forza con cui ti stai spostando in avanti, la velocità, l'accelerazione un po' la puoi mantenere, hai sempre degli aiuti in volo per cambiare direzione, normalmente se tu cadi hai poca scelta su cosa fare mentre cadi nella vita reale, a meno che non stai, che ne so, facendo paracadutismo con una tuta apposta. Cioè, puoi scegliere magari quanto andare veloce o un pochino se spostarti, ma nel gioco è una cosa, deve essere una cosa molto più rapida e intuitiva da aggiustare in volo. Anche quando tieni premuto il pulsante, non sempre lo puoi fare, cioè avrebbe più senso scegliere prima di saltare, no? Quanto vuoi saltare. nella vita reale tu, cioè, metti una forza per terra e in base a quanta forza hai messo salti in alto. Lì spesso in Super Mario o in Celeste, in giochi fatti bene, lo scegli durante il volo. Se lasci il pulsante, il personaggio cade prima. Quindi, cioè, tutti questi dettagli, tu dici, cazzo, certo, queste sottigliezze, questi... Esatto, queste sottigliezze. I sviluppatori, spesso giapponesi perché sono malati, ci pensano, cioè ci vanno a pensare, ci vanno lì e scontano tutto. Esatto, perché se ci chiedi, ogni tanto se ci chiediamo perché alcuni giochi platform, soprattutto perché se si parla di movimento, i platform sono quelli che in cui è la meccanica principale, hanno successo o falliscono miseramente, è perché molto spesso gli sviluppatori si concentrano su altre cose rispetto a una che può, che non tanto per ignoranza o stupidità, ma solo per, anche per abitudine, cioè uno non ci pensa tanto che mentre sviluppa un gioco, che ormai gli standard del movimento, di come si deve muovere il personaggio, sono già stati definiti, allora uno non ci fa più tanto caso e semplicemente dice ok, questo andrà bene, e poi ci si rende conto successivamente che anche una cosa come questa può influire molto sul tipo di gioco che ne verrà fuori. Io ho provato a fare un gioco, non so, te l'ho detto. No, racconta, anche per il pubblico, assolutamente. Ho giocato, cioè sì, ho giocato. In realtà sì, ho giocato per un paio di giorni su Unity per cercare di fare l'inizio, un prototipo di un platformer. Ovviamente, cioè, se te lo faccio vedere adesso ti collassi perché fa cagare, però... Ho provato un po' a implementare le cose più comuni che per me deve avere un platformer. Quindi, cioè, saltare, spostarsi mentre si salta, decidere quanto saltare in volo. Mm-hmm. E non è una cosa... Cioè, allora, esistono, ci sono molti strumenti adesso per sviluppare un gioco che sono facilmente disponibili per tutti. Quindi, cioè, tipo il fatto che se io premo un pulsante dentro il codice di gioco posso recuperare il fatto che che il giocatore l'abbia premuto, è una cosa facile da avere in un gioco, cioè una cosa che molti strumenti per lo sviluppo hanno già, certamente, però farlo bene, cioè fare una meccanica di salto bene, non è una cosa che esiste di standard, capito? Non è una cosa facile, non è assolutamente, cioè abbiamo fatto l'esempio di Super Mario Galaxy, no? Super Mario Odyssey. La telecamera di Super Mario Odyssey può sembrare una telecamera normale, cioè tu la sposti con il grilletto destro, con la levetta destra, e si ruota attorno a Super Mario, perché è un gioco 3D. Certo. Ma in realtà ha un livello di complessità che le telecamere che sono, diciamo, quelle standard gratis dentro gli strumenti non hanno, cioè ha un livello di... Mm-hmm. E questo già un po' ce l'aveva anche Super Mario 64, anche se lì adesso è invecchiata particolarmente male la telecamera. Cioè, aveva tante cose, tante, diciamo, accortezze che anche lì importano per un gioco. Cioè, anche quello che vedi spesso è controllato dal tuo controller e anche lì ci deve essere un aiuto, ci deve essere in background qualcosa che ti aiuta, che te lo rende più fruibile senza che te ne accorgi, diciamo. Mm-hmm. Infatti è quello, stiamo proprio parlando di una di quelle parti del videogioco in cui risulta assolutamente appropriata la frase se fai bene il tuo lavoro, nessuno se ne accorge. Esatto. Ma se lo fai male, aia, se ne accorgono tutti. Aia. Ed infatti siamo arrivati a un punto in cui ci sono degli standard per queste cose. Ormai se uno prende in mano il controller anche di un... prende un gioco, inizia a giocare a un gioco che non ha mai giocato, sa che tipicamente la levetta sinistra muoverà il personaggio, la levetta destra muoverà la telecamera, e che i vari pulsanti tipicamente A e B sono per le interazioni principali, oppure A e X, e uno ormai per certe cose esiste questo standard già definito dai videogiochi. Piccola nota? Assolutamente. Hai mai fatto caso che tipo Metal Gear Solid, per confermare alcuni capitoli usano cerchio invece che X? Piccolo aneddoto, racconta, esatto, pure, assolutamente. Tu probabilmente sai di cosa sto parlando. Sì, in Giappone, molti giochi che escono confermano su Sony, su schemi di comando PlayStation, usano per confermare un pulsante che ha un cerchio e per andare indietro o, diciamo, negare un pulsante che si chiama, che c'è la X, no? La croce. Mm-hmm. Però nell'Occidente è il contrario, cioè spesso i giochi usano, vabbè, A su Xbox e Switch, oppure usano la X sulla PlayStation. Esatto. E ho scoperto che c'è un motivo, cioè perché io mi chiedevo, no, ma perché sto cazzo di gioco che è la Metal Gear Acid usa il cerchio per confermare, che mi sbaglio sempre, cioè voglio tornare indietro e ho scoperto che è perché c'è una cosa culturale che in Giappone quel simbolo e quella posizione nel, esatto, controller è più positivo, invece nell'Occidente è più negativo. E a pensarci, ci cavolo, però effettivamente potrebbe essere, che ne so, cioè, no, come posso dire, potrebbe essere frainteso anche in Occidente, cioè, è uno standard, una convenzione a cui uno non ci pensa, perché lo impari, giocano tanti giochi e poi diventa una specie di pregiudizio. Comunque, scusami, volevo fare questo. No, assolutamente, infatti era proprio di questo che volevo dire, che esistono questi standard, sì, però sono standard che sono stati creati, uno deve prendere in considerazione, oltre al luogo, alla cultura e tutto quanto, che sono stati sviluppati anche con il tempo, o più comunemente perché un videogioco lo faceva in un certo modo, era uno tra i primi a farlo in un certo modo, questa cosa funzionava, allora tutti gli altri semplicemente l'hanno copiato, come succede molto spesso per tutte le questioni della razza umana. uno fa bene una cosa e tutti gli altri lo iniziano a seguire, e ci sta. Esatto. Infatti può essere anche rischioso per una casa di videogiochi inventarsi una tipologia di controllo del videogame differente da quella standard. Cioè, che ci sono giochi che hanno provato anche a creare nuove tipologie di interazione con l'utente, e poi sono falliti miseramente perché volevano talmente tanto cercare di essere innovativi e cercare qualcosa di buono che forse ma a volte non è neanche che cerchi di essere innovativo, è che non, magari non ci pensi a una cosa, esatto, che quel gioco che magari stai cercando di migliorare faceva meglio, tipo, che ne so, esatto, qualcuno dice, ma è un conflitto di opinioni, no? Semplicemente uno pensa che sia meglio farlo in un certo modo esatto. E non si accorge che ormai la gente è talmente abituata a farlo in un altro modo che, anche se fosse vero che è meglio farlo in un certo modo, a volte la massa non riesce a comprendere le sue buone intenzioni e questo nuovo metodo non riesce ad attaccarsi bene alla superficie che già trovava. O magari semplicemente non hanno budget per fare, adesso mi viene in mente Spider-Man, cioè sono usciti dei giochi di Spider-Man che facevano pietà, e uno dei motivi era che non avevano molte cose che Spider-Man 2 e ora il nuovo Spider-Man uscito per PS4 invece fanno, cioè cose tipo, se voglio girare per la città c'è il piacere di slanciarsi con la ragnatela, che non è solamente dovuto a, ok, c'ho il grilletto, lo premo, lo rilascio, no? C'è quel senso di, ok, lo sto facendo io, sto decidendo io il ritmo, ma è anche il gioco che, senza che te ne accorgi, cerca di farti schivare gli edifici invece di spiattellarti contro una finestra. Cioè, tante cose che il designer dei comandi del gioco originale ha trovato in quello nuovo, cioè gli hanno fatto provare il gioco nuovo e ha riconosciuto il rispetto, diciamo, dei metodi di input, ma anche di queste tecnologie dietro l'intelligenza artificiale che lui aveva fatto per quello che aveva fatto lui anni prima per Spider-Man 2. Quindi, diciamo, a volte non vogliamo essere cattivi e dire, ah, era qualcuno che voleva distruggere una cosa che non capiva senza saperla, così. A volte è semplicemente, magari non c'è il budget, non c'è la volontà dall'alto di gente che non è un designer di spiegarci troppo tempo. A volte la casa produttrice spinge più sulla, più sulla velocità che sulla qualità esatto, oppure sui giocattoli da vendere. Vabbè, questo ne parleremo dopo su altre cose. Un altro episodio, ne abbiamo tanti in esatto. Riserva. Però sì, quello che di nuovo ci tenevamo a dire è che una volta che si è scelta una console e per e di conseguenza uno un controller per l'input, un gamepad o mouse e tastiera che sia, un buon designer riesce a sfruttare quello che ha a disposizione per creare un gioco buono, un sistema di input interessante per il gioco che vuole creare. E tutti quelli che sviluppano per console e anche per computer questo, ai giorni nostri, perché i controller per computer esistono, devono sfruttare al meglio il gamepad che hanno a disposizione per l'input del giocatore. Ci sono giochi che funzionano bene su tastiera, con tastiera e mouse, ma che se portati se cercate di giocare con un controller, risultano più innaturali e macchinosi. Viceversa anche. Assolutamente, viceversa. Ci sono giochi poi che, qua faccio una piccola parentesi io, che ogni tanto cercano di creare interazione con il giocatore anche in modo veramente forzato e che risulta poi innaturale. Ok. E qui, ne parlavamo prima, io farei un accenno ai giochi della Quantic Dream, famosa, mamma mia, famosa per le sue avventure grafiche, anche molto ben scritte e interessanti, che però, come volendole portare ad un pubblico interessato ai videogiochi, devono per forza essere un videogioco, cioè devono essere interagibili con l'utente, interagibili da parte dell'utente. E molto spesso il cercare di far muovere una storia con gli input di un utente non risulta sempre nel miglior risultato possibile. Sì, perché sembra forzato e sembra quasi grottesco. Qui devo fare un commento che farò dopo, perché adesso mi è vietato farlo. Mm-hmm. Però mi ricordo un po' anche Call of Duty. Ah, ne parlavamo prima, tra l'altro. C'è un Call of Duty dove sei a un funerale. Esatto, anche volevo farlo anch'io quell'esempio, poi, perché... Ah, ok, vai. No, nel senso, continua pure, hai azzeccato in pieno. Perché poi questo si collega a quello che dicevi, cioè che tu per andare avanti con la storia devi premere F per come si dice in italiano, per... rispetto al caduto, al... Premi F per dare rispetto. È diventato un meme enorme, adesso ha preso vita propria su internet. Sono quelle cose che risultano talmente innaturali, complice, sì. E non tanto fatte male, ma più come dire, che stonano, ecco, che stanno così in un po' di cattivo gusto, un po' che spuntano così tanto durante il gioco che diventano famose per quanto sono fatte così. Da questo nascono meme, da questo nascono tutte le ridicolaggini dell'internet. E un altro esempio che mi viene era quando durante i primi minuti di Assassin's Creed 2, dove il tuo personaggio giocante letteralmente nasceva dal ventre materno, tu dovessi premere, non mi ricordo quale pulsante, per dare il primo vagito di... E questi sono modi in cui i developer cercano, come dire, di far immedesimare il giocatore nel personaggio che vogliono che giochi durante la partita. Però no, cioè, sono talmente forzate e innaturali. A me è piaciuto. Posso capire il pensiero che ci sta dietro, però non tutto deve per forza essere controllato dal giocatore per far sì che questo, per poter definire il videogioco un videogioco. Ed è anche questo il punto, uno deve trovare il giusto equilibrio di cose che il giocatore deve controllare e di cose che devono venire in automatico. E non sempre ci si riesce. Tra l'altro io odio i quick time events, cioè quando un gioco mi dice che pulsante devo premere, tipo che ne so, c'è questo filmato dove si stanno picchiando in due e tu ogni tanto devi premere questo pulsante, se no devi ricominciare da capo il filmato, io quelle cose un po' le odio. Sono fatte raramente bene. Queste sono reliquie di altri tempi in cui uno veramente ci parlava dell'inizio dei videogiochi, uno non aveva ancora fatto niente, ha detto proviamo a fare sta cosa qui, magari funziona. qualcuno ha pensato funzionasse. Ora io mi permetto di dire che quel qualcuno si sbagliava anche ogni tanto, perché e anche quello, essendo un gioco, essendo un'interazione con l'utente, se tu è un discorso complicato quello che volevo fare, che forse non volevo fare nemmeno qui, ma uno deve decidere quali sono, qual è il premio per il successo e per il fallimento dell'azione di un utente. Se tu vuoi se tu vuoi premiare l'utente perché riesce a premere rapidamente un tasto sullo schermo con semplicemente far andare avanti la storia, e punirlo con il resettare completamente la sequenza cinematografica del filmato che stava procedendo, e fargli ricominciare da capo, è qualcosa che può venire facilmente a stuccare. Sì, vai, fallimento e successo ne parleremo in un altro episodio. Infatti non volevo entrare troppo in argomento. Comunque sì, dicevamo, i giochi della Quantic Dream sono famosi perché durante tutto il gioco chiedono all'utente di far procedere questa storia che è la componente principale del gioco, sono una storia interattiva, premendo pulsanti, facendo muovere il personaggio e cose così. E ci si ritrova in situazioni veramente comiche in cui ci sono i personaggi che restano bloccati possono rimanere bloccati per ore se tu decidi di non premere la levetta nella maniera giusta per far procedere la storia, che secondo me crea un po' quell'idea contraria, distrugge un po' l'immersione dell'utente nella storia stessa. E quindi sì, quello che volevo dire era non è sempre necessario far muovere tutto al giocatore per far procedere il gioco. No, decisamente no. Decisamente comunque, no. Però adesso non so se... Vabbè, continuiamo con un discorso un po' più positivo. Cioè, è vero che sì, ci sono giochi che forzano un po' la mano, no, del giocatore, però esistono, esatto, anche giochi che, cambiando un po' quello che ti aspetti da una meccanica di input che spesso scompare, che spesso non vedi, non noti, riescono invece a farla notare in positivo, che è una cosa molto difficile, molto rara. Mm-hmm. Poi tu esempi ne parlerai tu, però volevo portare all'attenzione due esempi. Uno che gioca un po' con quello che è un po' l'aspettativa che si è creata, no? Tu dicevi il fatto che esistono delle convenzioni, delle cose che ormai siamo abituati, questo si fa assolutamente, così, come per qualsiasi cosa, certo, esistente nel mondo. E giocano un po' contro quelle aspettative. C'è una scena in The Last of Us dove tu, abbiamo già parlato l'ultimo episodio, tu nel gioco vai in giro con questa ragazza, questa... Come bambina. Dire? Bambina, quindi questo personaggio non giocante... Mm-hmm. Che tu non puoi controllare durante il gioco, per la maggior parte del gioco, poi spoiler, a un certo punto la controlli, ma diciamo nella prima parte tu devi fare delle cose, risolvere dei puzzle, muoverti negli ambienti in maniera silenziosa, uccidere nemici con lei, con il suo aiuto, e spesso magari, che ne so, devi, per esempio, devi salire un gradino che è troppo alto, quindi la aiuti a salire prima lei, cioè la spingi in alto, e il modo con cui lo fai è avvicinandoti al questo muro dove lei deve salire e premendo triangolo, mi sembra, sul controller. Mm-hmm. E a quel punto il personaggio principale, Joel, si mette in posizione con le mani basse, diciamo, per farla saltare in aria, cioè per farla saltare più in alto e aggrapparsi sopra, e poi lei sopra fa le sue cose, cioè che ne so, ti mette giù una scala, una corda, qualsiasi cosa. Solo che a un certo punto succede una cosa nel gioco e diciamo l'obiettivo del designer e dello sceneggiatore, insomma delle persone che ci stanno lavorando, è comunicare al giocatore che qualcosa è cambiato, che qualcosa ha disturbato profondamente questa ragazza Ellie, che dopo degli avvenimenti della storia è rimasta un po' traumatizzata, è rimasta un po' sconvolta. Quindi che fanno? Cioè, prima cambiano i dialoghi durante il gioco, cioè lei è molto più silenziosa e distratta, non c'è più quella botta e risposta di prima, quella interazione molto padre-figlia, ironica. E a un certo punto c'è questo puzzle da risolvere. Joel, cioè, fai avvicinare Joel a un gradino, premi triangolo e non succede nulla. Cioè, lui si mette giù così e sta fermo per tipo qualche secondo e lei non arriva. Di solito, diciamo, l'intelligenza artificiale di Ellie la porta lì e la poi fa salire. Dopodiché Joel giustamente dice, oh, che se fa? E quindi, cioè, sembra una cosa piccola, ma in realtà sconvolge il ritmo, sconvolge le aspettative di quello che succede premendo quel pulsante, no? E non lo fa in un momento tipo, ah, voglio sparare, premo il grilletto, l'arma non spara. Ah, cazzo, e poi sono morto perché si è bloccata l'arma. Non è che te lo fa così senza dirti nulla e ti punisce per una cosa che non sapevi. Lo fa in un momento che dove vuole mettere un punto e virgola, mettiamo un punto, vuole mettere l'enfasi sulla pausa e vuole farti capire, fermati un attimo, guarda che sta succedendo questa cosa, come anche lo capisce Joel. E poi c'è un momento successivo che, vabbè, dove la situazione un po' si risolve, un po' spiega altre cose, beh, non voglio andare troppo avanti, volevo concentrarmi su questo. Però hai fatto un esempio bellissimo, cioè che quando ti ritrovi a interagire con l'utente, puoi usare questi trucchi mentali, per così dire, per appunto fargli arrivare dei concetti che normalmente non sarebbe più difficile far arrivare magari a uno che guarda un film o legge un libro. Quando crei questa abitudine, questo modo di comportarsi nel giocatore, che sa che alla pressione di un pulsante i suoi personaggi nel gioco agiranno in un certo modo e poi gli rompi questo loop che si era creato nella sua testa, riesci a parlargli più direttamente. E questo è un altro ottimo esempio di come vengono usati bene i controller nei vari giochi. Sì. Un altro esempio che vorrei fare io in questo caso è nel videogioco, mi sta sfuggendo il nome adesso, come, aspetta, quale, scusami, quello di Edith Finch, però che non mi viene. Sì, oddio. Cosa rimane? What Remains of Edith Finch. Esatto, cosa rimane di Edith Finch? Grazie Jacopo. In cui c'è una sequenza verso il finale del gioco che è stupenda, veramente stupenda, in cui si parla di... In questo videogioco tu sei Edith Finch, una ragazza che torna nella casa materna per riscoprire un po' la storia dei suoi parenti più prossimi, dai bisnonni praticamente fino a lei, e di come questa famiglia fosse stata, per così dire, vittima di una maledizione, come la definiva sua nonna, sì, che, in cui tutti i suoi parenti morivano per morti tragiche. E lei riviveva le loro morti in una maniera molto poetica e quasi fiabesca, sì, una favoletta, durante questa quasi avventura. E in una di queste in particolare si parla di Lewis, un suo fratello tra l'altro, che è di come fosse afflitto da una condizioni mentali praticamente. Si parlava di depressione e di alienazione, assolutamente. E il giocatore per un po' entra nei panni di Lewis. Aspetta un secondo, nel resto del gioco Edith Finch è principalmente un simulatore di camminata, ne parleremo in un episodio assolutamente apposta. Però assolutamente. Cioè, tu l'unica cosa che fai è girare per questa casa bellissima, complicatissima, ma giri, guardi, apri porte, eccetera. Non è un gioco d'azione, non è un gioco giustamente di particolare tempismo. Ok, scusa, vai. No, andava detto. Infatti questa sequenza è rimasta impressa sia a me che a Jacopo per come cambiava completamente lo stile di gioco da un momento all'altro. Tu ti ritrovi a vivere per qualche minuto i panni di Lewis Finch, fratello di Edith, che, costretto a un lavoro monotono in una fabbrica di inscatolamento del tonno, se non ricordo male, o di pesce, qualcosa del genere, noi lo vediamo che giorno dopo giorno lui prendeva pesci e li metteva nella macchina per mozzargli la testa e per poi lanciarli nel nastro trasportatore per essere ancora elaborati. E tu sei lì con la mano, che controlli la mano di Lewis tramite il mouse. Muovi a sinistra per prendere il pesce, lo muovi a destra per mozzargli la testa e poi lo spingi via. E così di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. Quando a un certo punto, nella parte sinistra dello schermo, iniziano a vedersi le cose che Lewis andava, lui si immaginava durante il suo turno di lavoro. Questa fantasia che piano piano prendeva forma nella sua testa. E mentre con una mano tu continuavi a mozzare le teste dei pesci, con l'altra mano dovevi controllare il personaggio di Lewis all'interno della sua stessa fantasia. Esatto, quindi vabbè, con il joystick era levetta destra per controllare la mano che metteva il pesce sotto la lama e poi lo buttava via. La lama è automatica quando metti il pesce lì sotto, esatto. Cioè che tagliava. E poi con invece il gretto sinistro, sì, muovi questo personaggio dentro la fantasia in alto a sinistra. Esatto, era proprio questa dissonanza tra due tipi di movimenti. A sinistra era un movimento controllato in cui dovevi fare attenzione dove si muoveva il personaggio, mentre a destra era questo movimento ripetitivo e monotono che rappresentava il lavoro ripetitivo e monotono di Lewis. E mano a mano che la fantasia andava avanti, iniziava a occupare sempre di più, sempre una più grande parte dello schermo. Sempre. E Lewis si trovava sempre più immerso in questa fantasia che si evolveva e assumeva nuove forme e dimensioni. Prima era in 2D e poi si sviluppava anche essere tridimensionale. E tu continui a giocare quasi dimenticandoti, quasi appunto assumendo un fare automatico del tuo movimento con la mano destra, del trasportare il pesce fino alla lama che gli mozzava la testa, mentre con la mano sinistra è sempre più immedesimato in Lewis che viveva questa sua fantasia, fino al raggiungimento finale, dove la fantasia occupava la parte finale della fantasia, tutto lo schermo, la fantasia occupava tutto lo schermo e Lewis continuava il suo lavoro, ma ormai viveva in questo suo mondo di immaginazione. Ora, non vogliamo fare spoiler per il finale, almeno non io, quindi facciamo diciamo così, che... siccome allora, se un gioco è uscito da meno di un anno, ok, anzi facciamo così, meno di 2 anni, perché i giochi ci metti più tempo magari a finire, non è come un film, da più di 2 anni lo possiamo spoilerare, fanculo, basta, va bene, ci sta, okay? Quindi a questo punto... Finch lo possiamo spoilerare perché mi sembra sia uscito 2 anni fa o 3 anni fa, credo anch'io. Scusa Salla per la tastiera, ma devo cercare velocemente. Sì, è uscito 2 anni fa. 3 anni perfetto. Fa. Quindi vai. E allora, spoiler. Niente, sequenza finale del punto di vista di Lewis. È Lewis che si lascia completamente trasportare da questa fantasia. E uno è sempre lì. Noi giocatori viviamo questa cosa un po' in modo diverso. E siamo sempre lì adesso, dice... E noi sappiamo che Lewis deve morire. Quindi ci aspettiamo, per esempio, che... la mano venga mozzata in un attimo di distrazione o qualcosa del genere. E non ci rendiamo conto che questa immagine di monotonia e di come dire, mi stanno sfuggendo le parole in questo momento, ma è proprio Lewis che alla fine decide di interrompere questo ciclo, interrompere questa sua vita monotona e tediosa entrando completamente nella sua fantasia e suicidandosi utilizzando la stessa macchina che utilizzava per mozzare la testa al pesce. Esatto, cioè lui volontariamente, nonostante tutte quante le varie sessioni con la psicologa che cercava di aiutarlo un po' con queste sue fantasie, alla fine cioè, si alza e va a incoronarsi. Cioè, questa sequenza dove lui diventa il personaggio che controllava dentro al gioco, dentro all'immaginazione. Esatto. E si va al suo incoronamento, che in realtà è lui che decide appunto di farla finita. Ed è quello che, almeno parlo per me, mi ha colpito particolarmente, è come i designer siano riusciti a creare questa aspettativa, questa tu ti aspettavi che finisse in un certo modo, che fosse un incidente o qualcosa del genere, e non ti rendi conto di diventare praticamente analogo a Lewis con questa sequenza di movimenti della mano e ripetizione monotona dell'operazione. E immedesimandoti a un livello che va oltre il semplice leggere la sua storia sullo schermo. E quando arriva la botta finale, l'inaspettatezza della risoluzione finale di questa piccola storia, uno si sente particolarmente colpito perché era talmente entrato nei panni di Lewis, talmente immedesimatosi in lui, che rimane veramente senza fiato per qualche secondo. Ed era una sequenza di cui valeva la pena assolutamente parlare in questo episodio. Senti decisamente il suo dolore, la sua... È anche un po' simile alla tragicità di Don Quixote, cioè di quanto... Io recentemente ho visto un film di Terry Gilliam che si chiama L'uomo che uccise Don Quixote, che consiglio a tutti. È un film un po' un pochino lento, ma è comunque uno dei migliori film di Don Quixote, perché secondo me ha precisamente in testa la tragicità della alienazione volontaria, cioè di quanto lui stia cercando di fuggire dalla realtà, non perché è pazzo, ma perché è pazzo volontariamente. Cioè lui non accetta la realtà, non rifiuta l'ordine delle cose e prende la realtà e la sostituisce con la sua. Ed è una, come posso dire, un livello di tragicità che, con cui mi sento particolarmente, diciamo, in sulla stessa lunghezza d'onda. Ed è un personaggio con poche parole, cioè ha poche frasi lì, che in realtà tra l'altro non dice neanche lui, tratto dal diario, dalle sessioni con la psicologa, ma molto d'effetto, cioè frasi molto... Perché uno alla fine della sequenza uno gli potrebbe venire da dire: ma com'è possibile? Com'è possibile che si sia lasciato talmente tanto prendere dalle sue fantasie, da questa sua alienazione, da dimenticare il mondo reale? E poi uno si rende conto che lo aveva inconsciamente un po' fatto anche lui stesso giocatore, perché tu continuavi a muovere il grilletto destro o il mouse, ma arrivavi a un punto della storia in cui quasi non te ne accorgevi più. Ma però non vedevi bene tutto quello che succedeva lì, non... È vero, però c'è questa cosa, questa immedesimazione dovuta al fatto che anche tu, sebbene in maniera molto minore, hai vissuto un pochino quello che ha vissuto il personaggio. Hai dimenticato anche tu per un attimo di quello che stavi facendo nel mondo vero, e ti sei lasciato immergere nella sua immaginazione. Mamma mia, è stata molto... No, è stato molto... sconcertante quando io l'ho visto la prima volta. Sconcertante, ma non... cioè, non... in maniera macabra, positiva, assolutamente. Cioè, no, non una cosa macabra, non una cosa fatta solamente per lo shock. Comunque, per risollevare un po' l'umore, dopo aver parlato... No, aspetta, fammi finire la parte... Ah, no, assolutamente, prego. Poi andiamo sulla parte... Per finire la parte depressiva, c'è un aneddoto molto simile di un gioco che si chiama Brothers, A Tale of Two Sons. Ah, assolutamente. Tutti questi giochi verranno messi in descrizione, eccetera, poi alla fine mi devo ricordare fra la lista. In pratica è un gioco dove tu all'inizio, cioè, controlli due fratelli che hanno perso il padre. Ah, che coglioni, un'altra cosa depressiva, è morto il padre, ah, sarà una cosa tutta strappalacrime, eccetera. Però è interessante perché durante il gioco tu controlli entrambi, davvero. Cioè, in ogni momento tu hai due grilletti e due levette che controllano fratello sinistra e fratello destra. Mi sembra quello blu a sinistra e quello... arancione a destra, se non ricordo male, ma non è importante. Forse non ricordo bene nemmeno io adesso. Comunque, tu stai controllando per tutto il tempo questi due fratelli, e il gioco, tramite, vabbè, ovviamente puzzle e situazioni in cui ti mette, ti un po' allena a pensare ai due come a un'unità, cioè a pensare a questa relazione tra i due personaggi. Ed è in realtà una cosa, un meccanismo che è stato studiato anche in altri giochi. Io ho letto un articolo quando stavo facendo la tesi, prima che facessi la tesi, un articolo che aveva diversi problemi, però parlava di un gioco abbastanza vecchio, si chiamava tipo Head Over Heels, dove c'erano due personaggi, Head e Heels, e tu avevano diverse meccaniche uno magari saltava più in alto, l'altro no, non mi ricordo, era un mezzo platform, una cosa un po' strana isometrica, però a un certo punto si univano, cioè tipo uno saltava in piedi all'altro, e dove Reels, gioco di parole di merda, e i loro poteri, diciamo, si univano un po', cioè uno saltavano più in alto, potevano fare più cose, eccetera, ed era un po' un gioco con sottotesti sessuali, sottotesti di questa relazione, di come fare una relazione sana, insomma, tanti sottotesti, tante cose che questa qui che ha fatto l'articolo ci vedeva, però era un esempio di come modellare una relazione fra due personaggi nei sistemi di controllo, e Brothers A Tale of Two Sons lo fa ancora meglio, perché spoiler, però a un certo punto il fratello maggiore muore pure lui per un motivo che non sto qui a dire. Ed è incredibile la perdita che si sente, che ho sentito anch'io, nel non avere più quella metà del controllo. Cioè, improvvisamente, la mia mano sinistra, facciamo finta, è morta. Cioè, sta ferma, non deve più fare niente. Perché tu, per come metti la mano sul controller, non può fare nient'altro per come era fatto quel gioco. Non aveva altre cose da fare. E senti questa perdita proprio anche in quello che puoi fare, perché il fratello maggiore era quello più forte, che aveva più, diciamo, appunto, forza per spostare cose, finché c'è la rinascita, c'è il fratello minore che raccoglie in sé un po' la forza di andare avanti, e può usare, da quel momento può usare anche il grilletto del fratello maggiore per dare un po', come posso dire, la spinta di forza che ti serve per spostare una cosa. Non so se era il cadavere del fratello stesso, questo non mi ricordo, però, e andare avanti. E da quel momento in poi dici, un po' è il fratello che ricorda, che sceglie di far tesoro un po' del memoria del fratello e andare avanti, un po' è anche il gioco che ti dà occasione di far tesoro di quello che era l'abilità del fratello e andare avanti. Cioè, è uno dei momenti più importante, secondo me, nella storia del come modellare una relazione con i controlli, del come renderli importanti in maniera sottile, ma anche allo stesso tempo, appunto, per contrasto, fare profonda. Un punto profonda, fare un punto, fare un momento di impatto nella storia. Diciamo infatti, così. Questi okay. Sono, secondo me, gli esempi migliori di come questo medium possa riuscire laddove altri medium non riescono benissimo. Cioè, di nuovo, tu sì, ti puoi immedesimare con il protagonista di un film o di un libro, puoi provare qualcosa osservando un'opera d'arte, però questa interazione, questo poter modificare lo stato della storia ti fa arrivare ad un'immersione che altri mezzi, altre forme di intrattenimento, chiamiamole così, non riescono a raggiungere. Se è fatto bene, e gli esempi in cui è fatto bene veramente si contano sulle dita di una mano, si possono raggiungere momenti di gioia, tristezza, vari stati emotivi che è difficile raggiungere altrove. Non è questo l'unico modo, Questo è un esempio... No. Assolutamente. Dei comandi, però. Noi stiamo parlando di input oggi, perché poi di altre cose parleremo più avanti. Però dai, per tirare di nuovo un po' più... tiriamoci un attimo su, perché esatto. Parlavamo appunto di giochi che hanno fatto la storia con questi momenti in cui i loro input hanno raccontato, ci hanno fatto provare emozioni estreme, particolari. Ci sono anche giochi che, come dire, ci danno tutto il loro intrattenimento. Cioè, l'obiettivo di un gioco principalmente, quello più comune almeno, è di intrattenere, di farci divertire, e ci sono giochi che lo fanno proprio basandosi interamente sugli input che hanno a disposizione. A volte male, e quindi a volte male, assolutamente. È vomito, però a volte è bene. Assolutamente, però parlando di input vanno citati giochi in cui l'input è letteralmente, o per meglio dire, una meccanica di input innovativa e mai vista prima, è di per sé la parte fondamentale del gioco. Vengono fuori nome come tutta la serie di WarioWare, i videogiochi di minigiochi basati sul personaggio di Wario, antagonista di Mario, sempre della casa Nintendo, che sono stati... Scusate, minigioco è una specie di gioco dentro il gioco, più piccolino, più limitato nel tempo. Giustamente. Scusate. Scusa Jacopo per me, però sì. Minigiochi è un party game. Con party game intendiamo quei giochi che ci vengono da fare alle feste, così come da piccoli giocavamo a nascondino oppure al gioco delle sedie o qualcosa del genere, che non sono giochi complessi e profondi quanto possono essere The Last of Us o Cosa rimane di Edith Finch. Ragazzi, a una festa in 10 ti metti a giocare a Edith Finch. Vabbè, sono quei giochi inventati per farci divertire, per farci perdere tempo, per spensierarci un po'. E la serie di WarioWare è una serie abbastanza famosa, più in Giappone forse che fuori da qui, o sbaglio? Sì, non è famosissima qui. Qua in Italia è arrivata soprattutto negli anni, intorno agli anni 2006, giù di lì, perché c'è stato quello per la Wii, un po' prima c'era quello per il DS. E quindi vabbè. Sì, comunque, questa serie di videogiochi è famosa perché in ogni suo titolo utilizza i controlli del sistema su cui viene sviluppata, per esempio appunto quelli del DS, del Nintendo DS, che è famoso per il suo touchscreen, i suoi due schermi, di cui uno touchscreen, e la Wii, che è famosissima, una delle più famose, credo, console di Nintendo, che è famosa per il suo telecomando e metodo... Sì, telecomando di sistema di input mai visto prima a quei tempi. Ed utilizzava questi vari sistemi, il touchscreen, il DS e il telecomando, il Wiimote per la Wii, in maniera assolutamente esilarante e innovativa per fare tutti i suoi minigiochi. Mi ricordo che nella competizione per la Wii... il giocatore doveva impugnare e assumere varie pose con il telecomando della Wii alla mano, e a seconda di come lo impugnava c'erano svariati tipi di minigiochi in cui il movimento o il tempismo del giocatore influiva sul successo o sul fallimento del minigioco. E in cui ricordiamoci che una delle più antiche e famose forme di combattimento era lo zapping, perché la prima, se non sbaglio, impugnatura del telecomando era quella dell'antica arte dello zapping, in cui il giocatore impugnava il telecomando della Wii come un telecomando. Wow, interessante. Puntandolo verso lo schermo, poteva risolvere vari minigiochi che apparivano. Poi minigiochi della durata di 3 o 4 secondi, quindi veramente... Sì, a volte 15, a volte 4. Veramente, quello è stato veramente uno dei giochi che mi ha più impressionato in come design, come... Però il problema del Wii è che il Wiimote, cioè il telecomando del Wii, perché io dico... Esatto. Wii, perché sono pezzo di merda. E io ho sempre dato nomi femminili alle console, non so. Lo so, però per me Nintendo è maschile, non so perché, c'è sempre avuto questa cosa. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti, il telecomando del Wii è non è solamente qualcosa che tu puoi puntare allo schermo e lui capisce in base a delle luci infrarossi, cazzi mazzi, capisce cosa stai puntando, quindi puoi muovere un cursore sullo schermo quando usi il telecomando del Wii, ma ha anche dei sensori dentro che dipende da quale c'hai, perché se hai quello iniziale fanno un po' cagare e poi quelli successivi hanno roba un po' più complicata. Esatto. Capiscono l'orientamento, cioè come lo stai spostando nello spazio e con quale velocità. Il problema secondo me nasce da questo, cioè i problemi principali sono il fatto che molti giochi hanno cercato di usare questa cosa senza avere bisogno o senza criterio, cioè proprio provando cose. Tu negli esempi hai scritto Skyward Sword, ma in realtà quella è una delle cose un po' più fatte bene. Io parlo di roba tipo, cioè, mi ricordo giochi in prima persona tipo Call of Duty, mi ricordo, cioè, roba veramente senza capo né coda, di tu che dovevi semplicemente, perché c'era, dovevi muoverlo, dovevi shakerarlo. Cioè posso capire Wii Sport, shake shake shake, Esatto, posso capire Wii Sport che devi lanciare la palla da bowling o Just Dance che devi usarlo per ballare, come anche, vabbè, altre cose che parleremo dopo. Però mamma mia, cioè, non è che se ci sta lo devi usare per forza, capito? Cioè, è una cosa che poi, vabbè. Eh beh, ogni tanto il troppo stroppia. E sempre per restare in tema, altri giochi che sono diventati famosi, uno di particolarmente recente che si chiama Getting Over It, in cui... Ah! Chi è che racconta... Chi è che Bennett dice... Foddy? Come facciamo a raccontare Getting Over It in questo po'? Allora cercalo su YouTube e basta, non ne parliamo, è impossibile da raccontare. No, beh, è uno che sta... Allora... Tu controlli, proviamo, fammi provare. Vai, prova, per caso ti aggiungo roba. Il protagonista di questo gioco è un uomo pelato all'interno di un pentolone con in mano un martello. E il tuo obiettivo è praticamente fargli scalare una montagna costruita con gli oggetti più svariati, dalle rocce agli scivoli dei parchi giochi, a pezzi di satelliti anche, utilizzando solo il movimento del mouse per fargli ruotare questo martello proprio come un satellite intorno a lui e per spingerti oppure tirarti verso qualcosa. E se si può definire gioco questo, perché anche qua abbiamo almeno a parte mia è complicato questo caso. L'obiettivo uno dell'intrattenimento, diciamo, maggiore di questo gioco deriva proprio dal vedere le persone che diventano pazze nel tentativo di controllare questo personaggio fino alla fine del percorso. Però anche in questo caso si può vedere un esempio di utilizzo innovativo di un controller preesistente, il mouse del computer, in una maniera mai visto prima, in cui proprio mamma mia la difficoltà, l'innaturalezza di questo metodo di muoversi diventa il protagonista principale del videogioco stesso. Ho visto la tipo riassunto dello streaming di Sabaku in cui hanno costretto a provarlo, sono morto. No, vabbè, in realtà il gioco è un po' leggermente più profondo di questo, perché è vero che sì, è fatto apposta per far scalare le persone, però c'è un motivo dietro, c'è un mito dietro di un tizio che si chiama Diogene, che da lì prende un po' l'ispirazione del tizio con la pentolone, parla del fatto, insomma, della frustrazione, del perdere in un gioco, del perdere il progresso, del fatto che il gioco non ha un vero e proprio game over, ma semplicemente cadi e devi ricominciare da dove finisci quando sei caduto. C'è tipo il fatto che tutto il commento della persona che ascolti mentre sali riguarda un po' la testardaggine, mettiamola così, del giocatore. Ti invita più volte a smettere, cioè... lo so, è strano. Poi tipo arrivi in cima e il gioco ti chiede se stai registrando e se rispondi di no, entri in una chat dove sono tutti quelli che hanno finito il gioco lì dentro. Non ho idea di cosa parlano, se si insultano, insulti razzisti o... Probabilmente stanno rivalutando la loro vita in questo momento. Ma... crisi esistenziali ovunque. Sì, cioè il gioco di per sé è geniale per come è stato sviluppato e come dire, esposto al pubblico. Assolutamente da provare se odiate voi stessi. È un po' strano, tipo Katamari Damacy, cioè un po' giapponese. Sì, infatti ti aspetteresti che fosse che venisse un po' dalla terra del sollevante, però a quanto invece pare no, è peggio, è molto più stronzo. Ok. E poi allora, per concludere, giusto perché secondo me vale la pena citarlo, che è stato anche lì, secondo me è stato geniale chiunque abbia avuto l'idea, perché voglio dire, è uno dei metodi. Se l'input è la traduzione del movimento del giocatore in un segnale elettrico, qual è quel movimento che facciamo, che gli esseri umani fanno dall'alba dei tempi? Il Just Dance, la serie di Just Dance, ha creato questi videogiochi in cui l'obiettivo è ballare di fronte allo schermo della televisione seguendo la musica, una specie di karaoke, però invece che con la voce, usando il movimento del tuo corpo. Esatto, quindi è la cosa peggiore mai fatta dall'essere umano. Quindi, e invece secondo me è stato assolutamente geniale. Cioè, sì. La danza, l'idea della danza esiste in tutte le culture dall'alba dei tempi, e credo che essere riusciti a creare un videogioco che sfruttasse questo tipo di input sia stato assolutamente geniale. No, poi è delirante. Io conosco pure un tizio che ci ha lavorato come produttore per un po', e mi ha detto sì, cioè gli ultimi anni, gli ultimi 2-3 anni è praticamente come fare shitposting con un gioco, cioè come andare ma se guardi le conferenze della Ubisoft, perché ogni anno durante giugno facciamo delle conferenze stampa in un periodo specifico dell'anno, in una fiera che si chiama E3, Electronic Entertainment Expo, che adesso sta morendo per fortuna perché è un po' fatta un po' di merda. Cioè, sono queste conferenze, una di queste conferenze è della Ubisoft, che è la casa produttrice di Just Dance e di tanti altri giochi, e ogni volta fanno un numero, tipo uno sketch, che presenta un numero musicale ed è sempre delirante, cioè, per presentare Just Dance. Perché ormai è una cosa che si vende da sola, cioè ogni anno... E tra l'altro è l'ultimo gioco a uscire su Wii, cioè Wii è morto da anni. Sì, ma la gente si sorprende che... questo gioco venda così tanto. Mamma mia! Invece no, ma perché dovrebbe sorprendersi? Il ballare esiste da millenni, perché la gente non dovrebbe avere voglia di ballare di fronte alla propria console? Cioè, questa è seriamente, intendo, non è una presa perché per il siamo culo, dei pigri pezzi di merda. Infatti, è l'unico gioco, è uno dei pochi giochi che aveva senso per il Kinect, effettivamente. Cioè, assolutamente. E questo ci collega al nostro argomento successivo, no? Che sono... diciamo, quali sono? Noi abbiamo parlato dei metodi di input più classici e comuni: controller, mouse e tastiera. Se parliamo un po' delle console Nintendo, andiamo un pochino più nella stravaganza con il Wiimote e il suo nunchuck che si attacca in fondo. Però diciamo che, voglio dire, la PlayStation ha avuto lo stesso controller praticamente quasi dall'albore della PlayStation 1, e adesso siamo alla 4, quasi alla 5 ormai. Sì, è interessante. Xbox quasi idem, quindi vediamo. È interessante parlare un po' di quei controller dopo, però sì. Assolutamente, però dicevo, volevamo, non dico concludere, ma avvicinarsi alla fine parlando un po' dei controller che sono usciti, che hanno cercato di funzionare, alcuni che hanno anche funzionato per un po', e come dire, quelli un po' più stravaganti che non trovi proprio... Non è facile trovare. Su ogni scaffale dei negozi di elettronica. Cristo Dio. Uno che è venuto fuori parlando prima di Just Dance è stato proprio il Kinect dell'Xbox, sviluppato dalla Microsoft. Forse qua ne sei più tu di me. Oh, Cristo, in questo caso, se vuoi. Ce l'avevo il Kinect, no, credo più. Allora, io ho un po' questo problema, che compro sempre delle periferiche che poi muoiono. Cioè, ho questo, non so se è tipo io che porto sfiga, oppure io ho comprato il lettore HD DVD dell'Xbox, cioè, è un pezzo d'epoca quello. Cioè, è nell'epoca in cui il Blu-ray diventava il nuovo mezzo di vendita del diciamo del versione fisica dei film, no? Che ormai è un po' morta, però sopravvive tramite i Blu-ray. L'HD DVD doveva essere un po' il competitor, no? La tecnologia alternativa, e l'Xbox però non ce l'aveva il lettore dentro, era una cosa uscita dopo. Quindi hanno venduto sto robo che tu attaccavi all'Xbox esterno, e l'ho comprato perché sono un coglione, ancora ce l'ho, ho buttato 200 euro. Comunque. Diciamo il Kinect. Il Kinect, ho buttato 150 euro invece, no? Perché... Il Kinect, allora, in realtà no, allora, partiamo dagli albori. Era un'idea innovativa perché era un controller di movimento che non dovevi usare tu. Cioè, non era una cosa che stava su di te come il Wiimote. Spieghiamo che cos'è, scusa. È una telecamera, è un sistema di telecamere che registra il tuo movimento in 3D. Quindi la prima cosa che fa è spararti addosso dei... puntini con dei raggi infrarossi che tu, esatto, non vedi normalmente, e poi ci sono due sensori, uno che riprende te, cioè proprio quello che succede davanti, come una telecamera normale, come quella del e un altro che invece percepisce questi punti nello spazio, cioè a che distanza stanno, e quindi genera, diciamo, un'idea, un'immagine 3D in un cono davanti a lui, che poi la console può usare. La cosa, diciamo, innovativa è che faceva tutto questo in un sistema unico, abbastanza compatto, che poteva anche leggermente muoversi per seguirti, che era relativamente economico al tempo, perché 150 euro per questo sistema, per come era fatto, e poi ovviamente aveva le sue, come posso dire, non aveva la precisione laser dei satelliti, cioè, della NASA, però roba, voglio dire, per 150 euro funzionava, aveva dei bene. Limiti proprio, vabbè, comunque sì, la risoluzione è bassa, però bassa latenza, aveva delle librerie per gli sviluppatori, gente l'ha usato per mappare oggetti in 3D, farci dei modelli 3D, per mappare delle strade, no? Per mettere sopra i droni. Sì, cioè, ha avuto quasi più successo al di fuori del, esatto, mondo videoludico. Che... diciamo, per fare esempi di successo, prima di andare sul ridicolo, ha avuto molto successo sia il Kinect che la versione successiva, il Kinect 2, o Kinect Azzurro, come si chiama adesso, mi sembra. Mm. Ha avuto molto più successo per le università, perché hanno budget bassi per fare ricerca, e però avevano comunque bisogno magari di sensori e roba per controllare sistemi. Esatto. Quindi università, ricerca, ma anche campo della medicina. Ho sentito di gente che usava i sensori Kinect per controllare tipo neonati e prendere tipo emogas, cose strane, vabbè. È stato usato per appunto per roba di mappare oggetti 3D, esperimenti, eccetera. E quello successivo, il Kinect 2, ha introdotto molte cose molto utili per fitness, quindi controllo dell'equilibrio, quanto peso viene messo su una gamba oppure l'altra in base a vari calcoli e intelligenza artificiale, eccetera. Quindi molto complicato, comunque sia, usato male. Cioè proprio usato per fare cose ridicole, cose brutte fatte male, cose, diciamo, imprecise, cose... Cioè, allora, Just sì, Dance è anche un po' Star Wars per alcune cose, tipo stupide, tipo la danza di Han Solo. Quello ci poteva stare, perché non è che deve essere preciso, ti stai solo divertendo, fanculo. Double Fine ha fatto un gioco che non mi ricordo manco come si chiama, tipo Monster Palm, mi ricordo, una roba con Sesame Street... Che è un programma per bambini dove c'erano tutti i minigiochi interessanti, tipo The Floor is Lava, dove praticamente dovevi saltare sopra i mobili e diventava veramente lava nello schermo il pavimento. Bello questo non lo conosco. No, vabbè, questo è un esempio, poi hanno fatto altre robe, però per la maggior parte l'hanno usato per cose che veramente non c'era bisogno, cioè nel senso e forse il primo Kinect soprattutto è stata una tecnologia un po' troppo, diciamo, rilasciata troppo presto. Non era pronta quella tecnologia, nessuno sapeva come usarla, ma soprattutto la tecnologia stessa era troppo imprecisa, troppo difficile da usare in alcune situazioni, tipo seduto, tipo integrandolo con altre cose, cioè un po'... Infatti secondo me era quello che secondo me l'ha fatto un po' fallire, almeno dal mio punto di vista, il Kinect chiedeva un pochino troppo dal giocatore. Secondo me il giocatore che voleva solo mettersi a giocare lì, fare qualcosa la sera, se non era proprio un bambino di 5 anni che schizzava in giro pieno di energie, non c'aveva troppo voglia di mettersi a manipolare gli universi con tutto il corpo o qualcosa Mamma del mia. Genere. No, è sempre quello. È stato un po' un esempio di qualcosa che ha avuto successo in questo campo, però anche no. Esatto. Fino a un certo punto. No, non ce l'ha avuto. La cosa più interessante, secondo me, è che il Kinect, va bene, era una cosa diversa, fatta male. Non fatta male, cioè... fatta in maniera un po' imprecisa, con dei giochi che magari non potevano sfruttarlo appieno o non potevano sfruttarlo bene. Ma la cosa che mi ha fatto strano è che il PS Move ha fallito, se ci pensi. Racconta. No, cioè, magari tu puoi correggermi, però è più interessante perché alla fine il PS Move era la stessa tecnologia del Wiimote, perché essenzialmente era una copia di un Wiimote. Era abbastanza questa, una copia del Wiimote. Esatto, era questo coso che prendevi in mano, c'era cioè una palla sopra luminosa e ci muovevi e facevi roba. Però la cosa principale è che nessun gioco l'ho visto che dice cavolo, davvero. Cioè, mi ricordo PlayStation 2 iToy, che era un po' l'idea del Kinect, ma ancora più stupida, cioè ancora più semplice. Che era questa telecamera della PlayStation 2 dove potevi fare i minigiochi simpatici, così scacciare roba, schiacciare roba. E il PS Move aveva anche quello, ma neanche quello l'aveva sfruttato bene come certi giochi per il Wii. Cioè, sì, lì invece secondo è stato più una cosa del... Sono stati gli sviluppatori in quel caso che non l'hanno sfruttato proprio al massimo, non hanno avuto la stessa inventiva che hanno avuto quelli della Nintendo. Probabilmente un po' perché è venuto in ritardo, cioè effettivamente Kinect e PlayStation Move sono arrivati, hanno cercato di tamponare un po' l'assurdità che ha fatto la Wii con il telecomando e... ma erano 4 anni in ritardo quindi niente, nessuno però... si aspettava il telecomando della Wii in questo caso, non l'inquisizione spagnola che poi anche il telecomando della Wii, ricordiamo, non è che è andato proprio tutto raso e fiori. Comunque, no, assolutamente, però bisogna dire che la Nintendo in quanto periferiche particolari ne sapeva molto di più rispetto a Sony mai su questo campo, perché infatti vorrei citare giusto un paio di cose, non tanto da un punto di vista dei developer design, perché ormai sono estinte, non esistono più queste cose, però sono storia per un motivo, cioè voglio dire, la Nintendo è sempre stata una di quelle che ha puntato un po' di più su periferiche particolari, sia dall'inizio con il NES, in cui ricordiamo che venduto nella scatola base, mi sembra proprio del NES, c'era anche il NES Zapper, che era la pistola con cui potevi giocare a Duck Hunt, il famoso gioco di Caccia degli Hunt, che tra l'altro ho scoperto poi che funziona, non è tutto di immagini cose tipo ci saranno segnali infrarossi, semplicemente no. Sulla punta della pistola dove doveva uscire il proiettile c'era una telecamera che quando premevi il grilletto lo schermo durante il gioco, durante i vari giochi in cui serviva questo controller, diventava per un frame, per un attimo diventava nero, eccetto nel punto in cui poteva esserci l'interazione con il controller. Per esempio in Duck Hunt, il gioco in cui dovevi cacciare le anatre che apparivano sullo schermo, lo schermo diventava nero per un secondo, eccetto un quadrato bianco nella posizione dell'anatra, e se la telecamera sulla punta della pistola leggeva questo quadrato bianco, allora lo contava come contava l'anatra come colpita in questo caso. Fantastico. Che era una cosa che l'utente non se ne accorgeva, perché sì. In 60 frame al secondo, 60 come dire, immagini, sì. 60 pitture dello schermo al secondo, l'utente non se ne accorge, però la pistola lo leggeva e quella mi è rimasta sempre impressa. Tra l'altro, poi abbiamo avuto nei vecchi schermi, scusa velocemente. No, di pure. Tu praticamente nei vecchi schermi a tubo catodico avevi una specie di cannone che sparava 60 volte al secondo, sparava gli elettroni sullo schermo. Letteralmente, cioè tu in uno spazio di un sessantesimo di secondo dovevi sparare uno per uno i pixel sullo schermo, vabbè non erano proprio pixel, però dei punti sullo schermo di colore, e facevi linea per linea, cioè riga per riga, facevi e facevi così. Quindi quando arrivavi in fondo che avevi dipinto tutto lo schermo nero tranne quella parte bianca, avevi subito ricominciato da sopra a risparare. Esatto. Quindi era ancora meno... Vabbè, scusate. Ecco che poi si trasforma in un vecchia tecnologia. Esatto. Però sempre per restare in quell'epoca, i favolosi anni 80, in cui i periferiche per le console... Mamma mia, andatevi a cercare qualcosa, è uscito di tutto negli anni 80. È uscito anche quello che ha salvato letteralmente, probabilmente, l'industria del videogioco, perché ricordiamo che all'inizio degli anni 80, nell'83 se non sbaglio, c'è stato un crash dell'industria del videogioco, la gente non comprava più videogiochi assolutamente, fino a quando la Nintendo non lo sapevi, c'è stato questo crash, e la Nintendo per metterci una pezza praticamente cosa ha inventato? Ha inventato Rob, Robotic Operating Buddy. Rob, che se qualcuno gioca a Super Smash o a qualsiasi altro, è stato, ha avuto diverse apparizioni, comparse in vari giochi della Nintendo, è quel robottino che, sì, come dicevo, è uno dei combattenti in Super Smash, no? Andatevi a cercare Rob perché non saprei nemmeno come descriverlo in questo momento. Era questa periferica per il NES o Super NES, o no, per il NES se non ricordo male, che praticamente giocava con te. Era un affare enorme, lento, rumoroso, che funzionava malissimo, cioè... È tipo e non era, e soprattutto non era assolutamente divertente giocarci con... È tipo Emilio però peggio e anemico. Guarda, qualcosa del genere. Che funzionava con dei dischi rotati. Dovete andare troppo a cercarlo perché è una storia assurda. L'unica cosa è che ha riportato in auge i videogiochi, perché i bambini compravano le console Nintendo quando nessuno le voleva, perché c'avevano il robottone figo con cui potevano giocare. Quindi è stato quello che ha salvato la Nintendo durante gli anni Ottanta. Gli ha ridato giusto la forza che gli serviva per arrivare nell'89 a rilasciare il Power Glove. Che ecco. Ha il Power Glove. E che cos'è il Power Glove? Ma è quella periferica che hanno inventato per mettere in qualsiasi film di fantascienza. Ecco, avete mai visto Minority Report? La scena in cui c'è Tom Cruise che con il computer davanti allo schermo si infila quei guanti da cucina con appiccicate sopra le... quello, ma meno è più ridicolo di così. È più ridicolo, sì. Però era praticamente un guanto da cucina con dei... un guanto da cucina che arrivava al gomito, che indossavi sulla mano destra, con dei pulsanti che coprivano l'avambraccio, e che poteva essere effettivamente usato come controller alternativo al NES. Invece di prendere in mano il rettangolino con le quattro frecce e il pulsante A e B, c'avevi questo guanto da cucina. ancora troppo ridere a raccontare. Ma forse lo potete intuire dalla nostra reazione, ma è stato abbastanza un flop. Come... ma questo è esatto, è ridicolo ed è... ogni volta che lo vedo è bellissimo, tipo in Kung Fury o altri film dove è preso per il culo. Ah, giusto, è vero, anche Ackerman usava... I veri controlli ridicoli sono i bonghi, che tu hai anche scritto di Donkey Kong, cioè due tamburi per controllare il gioco, e c'è gente che ci ha finito Dark Souls. Sì, ma tale che sono stati creati per quel gioco lì, io non li ho mai più visti usati... Mai più, per fortuna. Ring Fit, voglio dire, che è nuovo, è praticamente una specie di anello che puoi comprimere, puoi farci esercizio, mettertelo sulle gambe, è tipo una specie di Wii Fit. Pedana per i Wii Fit, che è una pedana che praticamente controlla quanto la stai premendo e dove per fare esercizio. Ma soprattutto, e questa è una chicca che mi è venuta in mente adesso, lo skateboard senza rotelle di Tony Hawk. Nessuno se lo ricorda, ma c'è un motivo. C'è stato un gioco di Tony Hawk che ha cercato di vendere delle tavole a skateboard di plastica che si rompevano, che non ti facevano controllare bene il gioco. Cioè, tutto quello che era Tony Hawk Pro Skater l'hanno buttato in eccesso, e da quel momento in poi tutti i giochi di Tony Hawk hanno fatto schifo. Però, cioè, perché era quel momento storico in cui tutti cercavano di avere dei giochetti tipo Skylanders, tipo Zinza Infinity, ma anche dei controller tipo Guitar Hero, perché quelli c'erano dei margini assurdi su quei pezzi di plastica alla fine, perché Guitar Hero... Assolutamente. Chi non lo sapesse, Guitar Hero... È vero, hai ragione, la chitarra di Guitar Hero anche quella ha fatto abbastanza la storia. Ha fatto la storia, però quello è un esempio, secondo me, positivo, perché era tenuta bene. Avevi pochi pulsanti per avere, diciamo, le note da suonare nel gioco, era un rhythm game, cioè tu devi premere questi pulsanti al ritmo della canzone, e avevi la levetta per dare la stimpellata di chitarra, ma avevi anche la batteria, che in realtà è proprio una batteria elettrica, cioè non era... Infatti, assenza, no. Avevi anche il microfono a un certo punto, insomma, non era fatto male. Però tutti quanti hanno cercato di fare quello che facevano quelli di Guitar Hero, cioè vendere questi controller di plastica solamente per quel gioco. Vabbè, a parte che Guitar Hero nel frattempo è morto, nessuno ci gioca più e nessuno fa più quei giochi così, però... Non ci riuscivano benissimo, mettiamola così, a fare queste cose. Ci stai provando Nintendo con tipo quella roba strana di Starlink dove appiccichi una, è vero, una cosa sopra il joystick che poi anche su PlayStation 4. C'ha anche riprovato un po' vendendoti la Pokéball per, cos'era, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Sì, tutti i vari Amiibo. Voglio dire, modi per fare soldi ce ne sono sempre. Li trovano sempre. Ma ora volevo parlare, prima di finire con il nostro argomento sempiterno. Esatto. Abbiamo parlato del passato. Parliamo del futuro. Dobbiamo parlare del futuro. Allora, abbiamo detto, quindi, Kinect è morto, praticamente. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua. PS Move è morto. Però, qualcosa di entrambi è sopravvissuto. E altre cose, invece, sono completamente nuove per il futuro. Quindi, parliamo un attimo dei controller normali. Quindi, abbiamo avuto... controller della PlayStation 1 senza dual stick, controller della PlayStation 1 rifatto con il dual shock, quindi sia il rumble, cioè la vibrazione, sia le levette analogiche. Poi abbiamo avuto varie, diciamo, rivisitazioni con il 2, poi abbiamo avuto il 3 che aveva controlli di movimento un po' di merda, e alla fine abbiamo avuto il 4 con il famoso touchpad dove si può mettere il tocco. Il ditino, senza parlare del touchpad dietro la console della PS Vita, ma lasciamo perdere, con anche il microfono, la cassa sul joystick, quindi abbiamo avuto un po' un'integrazione di vari comandi nel joystick. Dall'altra parte Xbox invece si è un po' più concentrata sull'ergonomia, che invece la PlayStation ci ha messo un po' a capire come... cioè, che le mani che... non sono... Esatto. È bello che sia la PlayStation che la Nintendo fanno fatica a capire come è fatta una mano umana, cioè è come se non c'essero questo, invece la Microsoft si è cominciata molto perché sull'economia. I giapponesi non penso che interessi molto il comfort, esatto, è più la gimmick, no, che cercano, più la cosa strana che cercano i giapponesi, tipo è la tradizione ormai, è la tradizione giapponese delle cose strane. E invece, appunto, dicevo, Xbox ha aggiunto roba più di comodità, quindi come è fatto il controllo della forma, dove sono i comandi sul controller, ha fatto un po' di roba tipo aumentare la precisione della vibrazione, mettere la vibrazione dentro ai grilletti, adesso su alcuni controller Elite mettono anche che puoi modificare la corsa, puoi modificare i pulsanti, tutte quante le varie resistenze, vabbè, renderlo più possibile personalizzabile e comodo. Si vocifera però che le prossime console avranno entrambe, per ora solo la Sony, ma ci sono dei rumor anche per la Microsoft, avranno entrambe dei controller che avranno in qualche modo la possibilità di dare un feedback più di tocco al giocatore. Quindi modificare magari in tempo reale la resistenza dei grilletti inferiori, cioè dei grilletti, diciamo, che di solito si toccano col medio, col dito medio, e quindi rendere, che ne so, un'arma, quando la spari, diversa da un'altra. Cioè, la resistenza che devi mettere, la pressione che devi mettere sul grilletto per sparare. Come anche magari guidare una macchina, se controlli l'acceleratore sarà diverso. Bello. E si vocifera anche di altri controlli aggiuntivi che verranno messi dietro il controller. Però niente ancora di tipo... controller che ti danno le scariche elettriche da 10.000 volte, tipo i campi di combattimento in Yu-Gi-Oh! Allora. Esatto, ancora niente del genere. Però, insomma, si sta andando sempre un po' di più per l'integrare il giocatore. E parlando invece di altri elementi che sono sopravvissuti del Wii e del PS Move e del Kinect, realtà virtuale, abbiamo detto, certo, adesso ci sono tanti visori tipo Oculus, tipo HTC, tipo Vive, che facciamo notare, perché con realtà virtuale uno verrebbe dubbio da pensare più che input output, perché uno vede il visore, esatto. Però il punto è che nel visore ci sono anche i sensori della posizione della testa, di come inclini il capo, eccetera eccetera, quindi è anche un mezzo di input. Possono capire anche cosa stai guardando, quindi riconoscere il movimento della pupilla e possono tracciare, alcuni sistemi possono tracciare il tuo movimento nello spazio, quindi non solamente la rotazione, ma anche dove sei in una stanza. E anche, ovviamente, siccome non hai spesso la possibilità di vedere le tue mani, anche dei controller facili da usare, intuitivi, con cui puoi interagire con il mondo. Quindi dei controller di movimento come Wiimote, in realtà, cioè delle evoluzioni, esatto, un po' dei Wiimote, che anche quelli sono tracciati nello spazio, puoi prendere cose, usare cose, spostarle, ed è molto interessante come si sta evolvendo la tecnologia anche in quel campo per un po' mettere il più possibile i tuoi movimenti, le tue azioni in maniera intuitiva nel gioco. Per il momento richiedono comunque abbastanza training. E anche un altro sistema che ho provato, perché dove lavoro hanno un team che ci lavora, HoloLens. HoloLens ha un sistema che un po' ricorda un po' Kinect, ma un po' di più ricorda quello strumento che pochi hanno visto, che è tipo... Hai presente il Theremin? Ho presente il Theremin, sì. Nobody knows the... Vabbè. Cioè questa specie di piastra, e quello che ci metti sopra, tipo le tue dita, vengono rilevate in base alla distanza. E l'HoloLens fa un insieme di queste cose, cioè traccia sia quello che c'è intorno a te e capisce che cos'è. Mm-hmm. Scusate, non ho detto che cos'è. L'HoloLens è una specie di visore che ti metti, tipo una specie di grande occhiale, che ti fa vedere ologrammi, tra virgolette. Cioè, tu c'hai un quadrato davanti alla faccia dove ti sovrappone degli oggetti 3D, delle cose. Quindi ti sembra, è un po' un misto di realtà quindi visuale. Non è proprio realtà visuale, è realtà aumentata. Esattamente. Esistono visori di realtà virtuale che fanno anche questo, cioè che possono farti vedere quello che c'è, però questo è fatto apposta perché diciamo l'utilizzo fondamentale di questo oggetto adesso è per aziende che vogliono visualizzare tipo oggetti di design nello spazio in cui saranno o nello spazio reale e manipolarli. Quello per cui l'ho usato io è un gioco, un prototipo di un gioco dove praticamente sei un investigatore, devi scoprire delle cose e il visore capisce quello che c'è intorno a te nell'ambiente, tipo se c'è un divano nella tua stanza, capisce che è un divano e ci mette un divano il gioco, capito? Cioè ci puoi... Perché tipo io ho finito di giocare e il tizio mi ha detto, ma ti sei reso conto che a un certo punto ti sei messo a sedere e c'era un divano lì nel gioco? Ho detto, cazzo è vero, cioè... Perché no? Cioè, ti comporti in maniera naturale, non ti rendi conto, tipo c'era un tavolo dove c'era un tavolo, ma non era il tavolo della realtà, era un tavolo solo apposto con degli oggetti sopra, c'era il muro dove c'erano dei pezzi che cadevano, il soffitto con delle cose che si vedevano, quindi tutto... Insomma, stai dicendo è che manca poco per entrare nella matrice ormai. Esatto, perché la cosa poi interessante è che non avevo un controller in mano, ma usavo le dita, cioè usavo le mie mani per controllare le cose. Quindi, cioè, esistono già dei sistemi che sembrano futuristici, che sembrano, dici, cavolo, cioè, non c'è niente fra me, a parte questo coso enorme in testa, questo occhialone. Comunque, cioè, manca veramente poco a quasi far sparire per molte applicazioni i controller. E un po' ne guadagneremo per molte applicazioni, un po'... forse ne perderemo per altre, vedremo un po' cosa ne uscirà fuori, se sarà un esempio Kinect o un esempio Wiimote, vedremo. E niente, questo è un po' il futuro che ci si prospetta davanti. Non so se hai altre informazioni così su due piedi. No, anch'io ho pensato di parlare di realtà virtuale, questa cosa delle HoloLens che mi hai... di cui mi hai accennato è estremamente interessante, non ero a conoscenza. L'unica altra cosa di cui si poteva un po' iniziare forse, ma è ancora molto presto per farlo, è che si ipotizzavano già delle interfacce da brain to computer, cioè quelle che riuscivano anche quasi a leggere le onde cerebrali per poi... Oh mio Dio! Se proprio vogliamo fare i futuristici, facciamo i futuristici. Leggere onde cerebrali e poi per poi manipolare oggetti virtuali in un computer. Esistono già cose aziende su cui ci stanno lavorando. anche Elon Musk è interessato, giusto per, se vogliamo, citare il nostro amico che ha fatto, com'è che si chiamava, la Brain qualcosa, non mi ricordo. E quindi sì, è una possibilità più concreta di quanto si possa pensare. Ovviamente, però, mi sa che dobbiamo aspettare ancora un pochino prima è di ancora poter... un po' come quel gioco degli anni 90. Prima di poter giocare a Fortnite con, con il lettore di onde cerebrali, il tema ci vorrà ancora un pochino. Sempre Fortnite in ogni puntata. Assolutamente. Come e esattamente. Parlavamo di futuro, parlavamo di cose che si ripetevano in ogni puntata. Voglio dire, direi che questo è un ottimo momento, prima di salutarci, per avere il nostro momento Kojima. Vai, sigla, che uscirà in questa puntata per la prima volta e spaventerà le persone che si sono addormentate mentre ci ascoltavano. Assolutamente. Per favore, non fateci pagare il copyright. Kept you waiting, huh? Ok, dopo questa bellissima sigla che avete sentito, ma noi no, parliamo del nostro beneamato Hideo. Hideo. Kojima-san. Kojima-san. Allora, parlavamo di metodi innovativi e rivoluzionari di utilizzare i controller che si avevano a disposizione per, per trasmettere, grazie, all'utente dei concetti particolari oppure delle particolari sensazioni durante un momento di gioco. E Kojima-san direi che lo ha fatto. Il momento più famoso in cui è stato fatto è stato durante il combattimento con Psycho Mantis in Metal Gear Solid 1. Chi è che racconta qua? Momento veramente da esplosione di cervella, vai. In Metal Gear Solid, in un certo punto della storia, Snake, il protagonista, si ritrova ad affrontare un membro della banda dei cattivi, per così dire. Esatto, un boss di metà gioco. Un boss di metà gioco chiamato Psycho Mantis. Un uomo con dei poteri telecinetici. Sì, stiamo parlando di un gioco di spionaggio. Un uomo con dei poteri telecinetici in grado di manipolare gli oggetti intorno a sé e anche le menti delle persone. A Kojima la realtà non gli interessa molto. Cos'è la realtà? Non gliene frega un cazzo. E a un certo punto il giocatore dice, ah ok, interessante, fino a quando non si rende conto che di non riuscire più a controllare il personaggio di Snake. E Psycho Mantis sembra proprio rompere la quarta parete e rivolgersi al giocatore stesso dicendogli che in questo momento non puoi fare più nulla perché Snake non riesce più a muoversi e è completamente in balia del suo controllo. No, peggio, perché prima ti insulta, ti prende per il culo, ti dice ah, ti piace giocare a Castlevania, e tu dici, cosa? Tipo, cioè, se tu avevi giocato a un gioco, leggeva dai dati della memory card della PlayStation, dai dati memorizzati, il tuo salvataggio, e ti insultava, diceva, ah, quindi sei nerd di merda che gioca a, non lo so, a FIFA, a PES. Quindi oltre al danno anche la beffa. E poi prima ti prevedeva le mosse pure. Esatto. Racconta tu che mi sa che forse la sai meglio anche di me. No, cioè era questo. Cioè prima che non riuscissi più a controllarlo, ti prevedeva dove stavi per sparare. Ti spostava, ti schivava le cose. Quindi tu non capivi all'inizio. Quindi praticamente era questo personaggio che leggeva i tuoi input prima che il gioco potesse rispondere. Era un mindfuck abbastanza palese in tutto e per tutto. E l'unico modo per riuscire a battere... Aspetta, allora, scusa, prima no, di... No, ok, vedi, aggiungi tu. Un altro dettaglio, per farti, cioè, per darti un indizio su quello che dovevi fare a un certo punto, il personaggio cambiava canale. Cioè... È bellissimo perché adesso magari se uno è nato diciamo negli anni 2000 non capisce un cazzo, cioè non capisce quello che sta succedendo nello schermo, però a un certo punto lo schermo diventava nero e in alto a destra appariva una scritta verde, ho scritto tipo Hideo o non mi ricordo qual era la frase, e sembrava la TV, perché una volta c'erano molte delle TV che anche in Europa venivano acquistate, c'erano questa scritta verde o bianca quando cambiavi input canale, per dire, cioè, che ne so, AV oppure canale 1, sì, era... o il volume, no? Che tutte stavi, le varie, esatto, le varie barre. Momento. Ed era lo stesso font, cioè era lo stesso tipo di scritta con lo stesso colore, e quindi c'è molti giocatori che giocavano su uno schermo di quel tipo, tubo catodico vecchio, cioè gli esplodeva il cervello, perché dicevo, cazzo, questo qui mi sta davvero manipolando la TV, come cazzo è possibile? Cioè, mi sta sfanculando la console, cioè, che sta succedendo? Vai, scusami. E quindi, oltre a questa palese rottura della quarta parete, che cui un personaggio del videogioco reagiva e modificava a eventi reagiva a eventi esterni e modificava, almeno apparentemente, qualcosa all'esterno del videogioco stesso, l'unico modo per poter battere questa entità era di letteralmente staccare il controller dall'input numero 1 della console e riattaccarlo nell'input numero 2. E da quel momento in poi Snake riusciva a muoversi di nuovo liberamente. E Psycho Mantis, che stava leggendo solo l'input 1 della console, non riusciva più a due mosse e non riusciva più a controllare Snake come faceva prima. Ricordiamo che questo è un gioco uscito nel 98, per, di nuovo, per dire che quanto figlio. Siamo fan di Hideo Kojima. Tra l'altro io non ho mai finito Metal Gear Solid 1, mi sono fermato a Sniper Wolf. Uff. E quella fight sono riuscito a finirla perché io ci ho giocato su PlayStation Portable, quindi c'è emulato. E qualche veramente santo che vorrei trovare e abbracciare, ha pensato bene di mettere l'opzione tra le opzioni di emulazione per cambiare la porta di input solo per questo gioco, secondo me. Infatti, infatti è una di quelle cose che... Come fai a portare questo gioco anche nelle console future? Come fai a cambiare la porta di input in una PS4 che non ce li ha le porte di input? È vero, cazzo. È proprio... Questo è un esempio lampante di come Kojima ha usato la tecnologia che aveva a disposizione in quel momento storico per dare un'esperienza di gioco unica a quel momento storico. Cioè, è tutto quello di cui abbiamo parlato per le ultime ora e mezza e rappresentato in questa perfetta scenetta. Mi stai un po' mettendo tristezza con questa cosa. Ah, non si potrà più... No, perché è un problema, no. Davvero, vedi, cioè... questo è il punto, che Kojima è riuscito a farlo nel cosiddetto 98 avendo questa tecnologia a disposizione, e però non ha mai smesso di riprovarci a fare con questa cosa. Questa è una cosa che lui cerca di riportare in ogni suo gioco. Se vogliamo parlare un po' di Death Stranding, una delle cose che mi ha colpito un po' di più, anche se non siamo più a questi livelli, sì. però voglio dire, è comunque un tentativo, non è che si può fare sempre uno Psycho Mantis in ogni gioco. Però nell'ultimo gioco di Kojima, appunto Death Stranding, una meccanica di gioco è che tu puoi cullare il controller della PS4 proprio come il personaggio giocante nel gioco culla un bambino durante la storia. Cioè, quindi ci sei tu che culli il tuo controller della PS4 e allo stesso tempo Sam Bridges, il protagonista del gioco, che culla il Bridge Baby tra le sue braccia. Che tra l'altro piange, porca troia. Cioè ti piange il controller, hai capito? Ah, è vero, è vero. E a me questa cosa ha fatto sempre molto ridere, però l'ho anche apprezzata molto per come tentativo di, come dire, innovazione sempre nell'input, come dicevamo. Un ultimo esempio, se posso dire, che ora questa qua non ho capito bene se è una di quelle cose che si leggono su internet. Non la diciamo, questa non è confermata. Non la diciamo, ok, no. Però non... Ok, forse c'era forse non si è capito benissimo, non è confermata. Una cosa simile è stata fatta anche in PT. Playable teaser, il teaser del nuovo Silent Hill che era uscito tempo fa sullo store della PlayStation e che poi è stato ritirato quando Kojima è stato brutalmente licenziato, no, non brutalmente licenziato, ma è stato quando Kojima ha deciso di abbandonare Konami perché lo stava abbastanza soffocando come, come creativo, diciamo. Però sì, era giusto per dire che è una cosa sua che fa in parecchi giochi, che cerca di fare in più giochi possibili, quella di utilizzare controller in maniera innovativa e che possano funzionare a, a raccontare la storia del gioco stesso. Marco, mi dica. Ma tu? Ma io? Sapevi che Nintendo DS aveva un microfono? Voglio dire, io consciamente lo sapevo, ma forse non lo sapevo abbastanza quello che mi stai dicendo. Perché io non lo sapevo. Cioè, io ho avuto un Nintendo DS e poi un Nintendo 3DS, io non sapevo che avesse un microfono. Mm. E c'era un gioco che si chiama Another Memory, tipo Dual qualcosa, Dual non mi ricordo, che uno dei puzzle si risolveva soffiando nel fottutissimo microfono. E ti giuro che ci sono stato giorni, ho fatto qualsiasi cosa, ci ho perso veramente delle ore, e io non sapevo che ci fosse il cazzo di microfono. E non l'ho mai usato in nessun altro gioco, che gli possa prendere un colpo a chi ha fatto un gioco. Il bello è che mi hai fatto appena tornare in mente un altro episodio, permettimi, di stupidità molto simile a questa, che io stavo giocando a, se non ricordo male, Zelda, uno dei primi, il primo gioco di Zelda uscito per il DS, proprio per il DS, che era tipo non il seguito di Wind Waker, però era sempre quello in cui avevi una barca e andavi in giro per il mare. Sì. Mi sta sfuggendo il nome però. The Phantom Hourglass. The Phantom Hourglass, la clessidra fantasma. Il meno conosciuto, diciamo. Uno dei meno conosciuti, effettivamente. E mi ricordo, come fosse ieri, questo momento di gioco in cui Link, il protagonista, trovava una mappa, trovava in un tempio un indizio per andare in un luogo che gli serviva. E tu ti trovavi in queste schermate, nel DS, ricordiamo, con due schermi, uno superiore e uno inferiore, in cui nello schermo inferiore c'era la tua mappa, in cui una delle meccaniche di gioco era appunto che potevi scriverci sopra e appuntare tramite il touchscreen del DS. E nello schermo superiore c'era una mappa, però ribaltata, cioè letteralmente capovolta, con questo simbolo che era il luogo dove tu dovevi andare, che tu dovevi raggiungere per proseguire nella storia. Io sono stato lì tipo per delle ore a dire, ok, allora c'è la mappa, allora vuol dire che devo scrivere nella mappa dove il simbolo in cui devo andare. Okay, strano che è capovolta, ma magari è tipo l'enigma, devo ricapovolgerla nella mente, sì, poi segnarmi, certo, nella mappa. No, in realtà tu dovevi chiudere il DS per fare in modo che il simbolo nella mappa superiore venisse incollato nella mappa inferiore. Cazzo, non ci sarei arrivato manco io. Io non ci sono arrivato, anche perché era una meccanica che veniva usata solo quella volta in tutto il gioco. Quindi molto carina, molto bella, però uno di quegli esempi in cui se non riesci a... Cioè, se non è una cosa che utilizzi sempre, non puoi pretendere troppo che il giocatore ci arrivi se non gli dai qualche altro indizio. Porca troia. E ancora un'ultima cosa prima di salutarci, perché ne valeva la pena. Proprio quando mi hai detto, ma ti ricordi che il Nintendo DS aveva un microfono? E mi sono ricordato di un'altra console della Nintendo, in questo caso però Game Boy Advance, per cui Kojima ha lavorato a un gioco. Te lo sapevi tu che Kojima ha lavorato a un gioco per il Game Boy Advance? Kojima ha lavorato a un gioco per il Game Boy Advance che si chiamava Boktai. Okay. In Boktai tu eri un cacciatore di vampiri, praticamente, che aveva una pistola solare con cui poteva sparare ai nemici utilizzando l'energia del sole. Tu dirai, ok, carino. Oh mio Dio, progetto. No, dimmi che non è vero. E a quanto pare è stato lui, se non ricordo male, che ha creato questa particolare cartuccia per il Game Boy con un sensore luminoso. Oh mio Dio! Era questo obbrobrio di cartuccia che sporgeva dal Game Boy Advance con un sensore luminoso che tu dovevi ricaricare con la luce del sole per far ricaricare l'arma del protagonista del gioco. Merda. Quindi parlavamo di input innovativi e cose del genere, ci ha provato anche qua. Ora questo, merda, più o meno, diciamo, successo, ma... Vabbè, però almeno non era una feature del Game Boy Advance. Che no, questa era proprio una cosa... Ha costruito lui la cartuccia particolare, non so, tutto proprio di... Tra l'altro mi sa che Game Boy Color aveva qualche sensore, qualche roba con... Vabbè, non lo so. Ok. Non che ricordi, ma andiamo. Va bene, direi che abbiamo trattenuto i nostri ascoltatori anche per forse troppo. Anche se siamo arrivati oltre un'ora e mezza, forse no. Forse no, credo che siamo tipo a un'ora e quaranta di registrazione, forse anche un'ora e cinquanta. Ma chi se ne frega, tanto usciamo ogni quattro mesi. Quindi... Infatti. Quindi godetevi le nostre seducenti voci. Noi a questo punto direi che se nessuno altri aneddoti della propria infanzia da aggiungere, ci possiamo salutare. E questo alla è sempre prossima. Marco. Sì, questo è sempre Jesse. E porteremo l'amore. Cavolo, sai che mi vergogno di me, ma mi sa che ho dimenticato James. Il motto del Team Rocket. Io me lo ricordo in inglese, quindi sono peggio di te. Comunque, vabbè. E questo è. No, di pure, scusami. Ci sentiamo alla prossima puntata, che forse sarà finalmente con un ospite, se Marco mi consentirà la combo break, appunto. La... Solo perché sei una tu. Pausa, esatto, una pausa nella sequenza. Normale programmazione. E direi che da noi è tutto per questa puntata. Un saluto e continuate a giocare. Alla prossima, ciao cari.